Netix, programma che va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30, ma andiamo con la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine oggi il 25 gennaio 2024 e questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Quindi ora andiamo subito all'ascolto di questa band che è esistita tra i primi anni 2000, il primo decennio, e questo è il loro album Sound Asleep. Loro sono i Ballast, dalla zona di Victoria nel Canada. Ci ascoltiamo uno o due pezzi, Ballast. Sì, benvenute e benvenuti all'ascolto di Zernis Magnetics anche da parte mia. Allora, lo scorso giovedì abbiamo parlato di questa chiamata che avevamo fatto per appunto venerdì 19 a una presenza al Tribunale di Trieste, perché appunto ci sarebbe stato il nostro compagno Stecco. Non sapevamo ancora se in presenza o in videoconferenza. E poi a seguire si era pensato di fare appunto un presidio davanti al Coroneo, un presidio per i prigionieri, insomma, in solidarietà ai prigionieri, e anche per così parlare con loro e con le persone che passano per la strada del pacchetto sicurezza. Allora, ci sembra giusto, insomma, dare un ritorno di quello che è successo venerdì 19 a gennaio a Trieste. Allora, intanto, prima cosa, vi leggerò un comunicato di Stecco riguardo all'imposizione della videoconferenza, in quanto appunto non gli è stato possibile così leggere direttamente questo suo comunicato in udienza, e poi vi dirò anche un po', racconterò un po' anche di quello che è successo nell'udienza stessa. Ci scrive Stecco: ieri 17 gennaio mi è stata notificata dalla matricola del carcere di Sanremo la decisione del DAP del 16 gennaio di impormi la videoconferenza presso il Tribunale di Trieste per i due processi che avrei dovuto avere in presenza i giorni 19 gennaio, appunto lo scorso venerdì, e 1 febbraio. Il giudice che ha avallato questa decisione è la dottoressa Valentina Guercini. Il motivo è semplice e per noi anarchici ormai noto, cioè di essere classificato come un anarchico insurrezionalista e quindi, per ragioni di sicurezza, è stata revocata la precedente traduzione disposta dalla stessa giudice. Non ripeterò i motivi per cui sono totalmente contro questo tipo di imposizione. In tanti e tante compagne nel tempo ci si è espressi a riguardo, sia sulle impossibilità di difendersi decentemente e guardare in faccia i propri inquisitori, ma soprattutto, cosa più importante, è trasformare questi momenti repressivi, che sono i processi, in momenti di lotta, di far trasudare anche nelle loro aule lo spirito che ci pulsa dentro, di opposizione, di conflitto, di dignità politica ed umana, di presa di parola. E visto che proprio per queste occasioni avevo preparato un testo di solidarietà internazionalista, spendo qualche parola su questa citazione di situazione di censura e depoliticizzazione del processo, cosa che non riguarda me, ma tutti i compagni e le compagne, tutti i detenuti e le detenute in generale. Sappiamo bene cosa sta avvenendo nel mondo della giurisprudenza e della giustizia borghese con l'introduzione della tecnologia. Conosciamo i responsabili materiali che permettono tutto questo, la cui videoconferenza è per certi versi già antiquata. Il futuro è molto più raccapricciante con l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Basta leggere giornali e riviste del settore per farsi un'idea del dibattito in corso a riguardo. Visto che per questi processi non ho ancora potuto vedere di persona la mia avvocatessa di fiducia di Trieste, sarò costretto a partecipare alla videoconferenza per interloquire con lei per alcune questioni tecniche. Fatto questo, dichiarerò quello che penso e accuserò la giudice di questa sua decisione impostale dal DAP. In poche semplici parole, e me ne andrò. Per essere chiaro, questo avverrà in questi due processi al Tribunale di Trieste. Il 10 gennaio invece mi era stata imposta la videoconferenza dal giudice Marco Tamburino di Trento, con delle scuse più sottili. Vedremo se in futuro mi farà presenziare al processo per l'operazione senza nome, come da me richiesto tramite avvocato. 18 gennaio 2024, carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco. Sì, allora questo era il comunicato appunto di Stecco relativamente all'udienza del 19 gennaio scorso. Allora, la presenza in aula c'è stata, abbiamo saputo appunto lì per lì che è stata negata questa traduzione, quindi non è, il compagno non ha potuto essere presente. Ricordo che Stecco è in carcere a Sanremo dal, beh, prima era Imperia, poi è stato trasferito a Sanremo, comunque è carcerato dal 20 di ottobre scorso, dopo 2 anni circa di latitanza. E questo processo del 19 riguardava praticamente una manifestazione, cioè l'accusa è di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata il 1° di maggio del 2021. E tra l'altro molte altre compagne e compagne sono stati già processati per questa faccenda e sono stati assolti. Però c'è questo accanimento su Stecco. Invece il processo del 1° febbraio riguarda una accusa di istigazione a delinquere per un discorso che il compagno avrebbe tenuto sempre il 1° maggio del 2021. E appunto, come Stecco dice, insomma, nella sua dichiarazione, la sua traduzione, quindi la possibilità di partecipare in presenza al processo, era stata, si era pacifica, diciamo, anche perché non si trova in regime di alta sicurezza, ma è detenuto in un carcere comune, in regime di detenzione comune. Però appunto c'è questa faccenda della pericolosità per quello che Stecco è e non per quello che Stecco ha fatto, e cioè anarchico, appunto definito insurrezionalista, e quindi c'è stata questa stretta, questo impedimento, grave impedimento che gli ha impedito appunto di essere presente. E anch'io non mi dilungo sulla aberrazione costituita dalla videoconferenza. Diciamo che vale la pena di dire quello che succede in quelle aule di strafanici, come, e cioè di soggetti inservibili da buttare nei ferri vecchi, e come li definisce Stecco appunto in un'altra, in un altro scritto. Sì, appunto, vale la pena di dire come ci si trova nelle aule. Non è la prima volta, cioè questa roba delle videoconferenze è una presa veramente per il culo, cioè è una pura e semplice limitazione del diritto di difesa, è una umiliazione anche delle persone imputate, in quanto non funziona mai niente. Ad esempio, venerdì 19 si vedeva a un certo punto l'immagine di Stecco col suo avvocato, ma non c'era la possibilità dell'audio. Nessuno dalla matricola del carcere di Sanremo rispondeva di questa, diciamo, di questo malfunzionamento. Ci sono state 300 telefonate dalla cancelliera del tribunale di Trieste fino alla matricola di Sanremo, e nessuno sapeva niente, era tutto un sentito dire, quindi una roba veramente allucinante, cioè ridicola se non fosse però invece tragica, perché ci sono di mezzo le vite delle persone. E a un certo punto finalmente insomma l'audio viene attivato, quindi si sente, si vede il compagno nel video, e anche si sente la sua voce, e lì è scattato da parte nostra, dei solidali, è scattato il saluto. E da lì, dal momento del saluto, c'è stata una escalation di arroganza, sia da parte dei togati, sia della togata, sia da parte poi chiaramente dei carabinieri, che sono stati chiamati a sgomberare l'aula. E quindi insomma è finita così, cioè è finita che dopo un po' di casino, di proteste, sì, siamo usciti e è così. E il processo è stato rinviato comunque all'8 di marzo, quindi vedremo quello che succederà. E la giudice ha però deciso che i processi, anche quello del 1° di febbraio, saranno a porte chiuse. Staremo a vedere quello che succederà. E appunto, per la giornata avevamo pensato anche a questo presidio, come dicevo prima, davanti al carcere del Coroneo. E era una giornata infernale, in quanto nevicava, c'era anche una bora considerevole che ha impedito di fatto la realizzazione del presidio. Però vale la pena di dire che Per questo presidio abbiamo fatto veramente decine di presidi davanti al Coroneo, e sto giro la questura ha fatto delle prescrizioni demenziali, cioè praticamente voleva imporre imporci di fermarci a Forolpiano, cioè praticamente davanti al tribunale, cioè in un luogo tra il parcheggio, tra l'ingresso del parcheggio nell'area pedonale, in un luogo disgraziato, insomma, che non ha nessun significato, dal quale difficilmente le prigioniere e i prigionieri possono sentirci, e il presidio ha lo scopo di dialogare con chi è dentro. E quindi, insomma, anche è da segnalare questa cosa qua, queste proliferare di prescrizioni, nello specifico a Trieste di continuo fanno delle prescrizioni allucinanti, tutto per appunto creare una spirale di repressione, in quanto è ovvio che non si possono accettare prescrizioni che non saranno in cielo né in terra, prescrizioni demenziali, come ho detto, quindi è chiaro che le prescrizioni vengono violate, quindi poi dopo scattano le altre cose di repressione avanti, no? Quindi l'intento è proprio quello di preventivamente, diciamo, di dissuadere ogni forma di manifestazione di strada che non sia allineata con quello che vuole lo Stato di Polizia, e questo, insomma, è una roba grave, ma chiaramente non, per quanto ci riguarda, sì, ci interessa fino a un certo punto, quindi si vedrà. E riproporremo sicuramente il presidio quando sarà il momento. Un saluto a tutte e a tutti voi che ascoltate. Una decina di giorni fa è uscito un numero speciale di Bezmotivni, senza motivo, quindicennale anarchico internazionalista, numero speciale, anno terzo, nonostante appunto l'operazione, sì, il processo mi sono sottoposti alcuni compagni individuati dallo Stato come referenti appunto di questo progetto, è stato diffuso questo numero. Leggiamo dal, diciamo, articolo di apertura: questo numero speciale del giornale esce anzitutto come risposta all'offensiva repressiva contro il movimento anarchico e alle intimidazioni dei magistrati davanti al monito dello Stato nei confronti di chi sostiene le ragioni dell'attacco o il silenzio o la condanna. Non stiamo zitti, non ci rassegniamo, continuiamo a batterci, perché contro la censura non si devono fare passi indietro. Il terreno che abbandoniamo oggi non saremo in grado di recuperarlo tanto facilmente domani. Ecco, in risonanza con il discorso della depoliticizzazione dei procedimenti repressivi, vi voglio leggere credo che non l'abbiamo fatto in precedenza, comunque è una dichiarazione di Monica Caballero del 6 novembre 2023, che troviamo in questo numero di Bezmotivni, ma io ve lo leggerei anche integralmente. Dichiarazione di Monica Caballero, 6 novembre. Cercherò di essere abbastanza breve, visto che avevo deciso di non prendere la parola in questa sede, però reputo che sia necessario precisare una serie di questioni piuttosto specifiche rispetto ad alcune affermazioni in prevalenza del PM. Dunque, ho deciso di rilasciare una dichiarazione finale in questo processo che mira a essere una punizione esemplare, perché non posso lasciar passare l'opportunità di difendere e chiarire una serie di aspetti che hanno a che fare con le idee e le pratiche che ho difeso e adottato praticamente negli ultimi 20 anni della mia vita. Il signor pubblico ministero ha chiesto al mio coimputato se sono anarchica. E sì, certo che sono anarchica, però questo che significa? Dicendo anarchismo mi riferisco a un insieme di idee pratiche che, inquadrate in principi che sono ad esempio il mutuo appoggio, la solidarietà, l'autogestione, costruiscono idee pratiche che si iscrivono nella distruzione e nella costruzione. Che voglio dire con questo? La costruzione di ciò che è. Quando mi riferisco all'anarchismo intendo quell'insieme di idee pratiche che, in base a principi come il mutuo appoggio, la solidarietà e l'autogestione, costruiscono le condizioni affinché tutti gli individui costruiscono le condizioni affinché tutti e tutte ci sviluppiamo in maniera integrale. Tuttavia, allo stesso tempo, queste condizioni mirano alla distruzione di ogni forma di dominio. Cosa intendo con ogni forma di dominio? Quelle forme di dominio che sono, ad esempio, l'attuale sistema di oppressione economica imperante. Ciò vale a dire il capitalismo e anche l'egemonia del potere politico, ovvero l'attuale Stato. All'interno di queste pratiche noi anarchici possediamo un ampio ventaglio, come ben diceva il PM. Tra le pratiche anarchiche esiste la violenza, ma ciò non è appannaggio unicamente dell'anarchismo. E allo stesso modo l'anarchismo non contempla la violenza come sua unica espressione pratica. E sì, ci sono compagni che hanno collocato degli ordigni o che hanno spedito ordigni esplosivi, ma insisto, questa pratica di violenza politica non appartiene al solo anarchismo. E l'anarchismo non esercita unicamente la violenza politica. In relazione a tutto ciò, devo necessariamente porre una domanda e contemporaneamente rispondermi: che cosa caratterizza la pratica anarchica? Le pratiche anarchiche, violente o meno, si iscrivono e traggono ispirazione necessariamente all'interno delle idee anti-autoritarie. Non possiamo separare l'idea dalla pratica anti-autoritaria anarchica, fino anche rivoluzionaria, in un ampio spettro, senza tenere in considerazione la complementarietà tra idea e pratica, vale a dire che le pratiche anarchiche non si sostengono senza la colonna vertebrale delle idee. Mettendo in chiaro tale questione rilevante tra idea e pratica, posso categoricamente dire che una pratica anarchica, violenta o no, non sarà mai indirizzata in maniera indiscriminata. Il PM, in una delle sue repliche, chiedo venia durante la sua requisitoria, ha menzionato un concetto molto azzeccato e antico di noi altri anarchici. Si è riferito alla propaganda col fatto. La prospettiva del PM sulla propaganda col fatto, o ciò che ha cercato di spiegare in relazione a questo concetto, è una maniera molto miope di vederla, fondamentalmente perché ha tentato di inquadrarla nel contesto storico in cui ebbe il suo apogeo. Se non ricordo male, tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, quando un congresso a Londra, un gruppo di anarchici di diversi luoghi del mondo assunsero come pratica la propaganda col fatto, e questa propaganda col fatto la incarnarono attraverso assassini, collocazione di ordigni esplosivi e una lunga lista di altri episodi. Ma la propaganda col fatto è molto più di questo. Ciò che io sto facendo, sta facendo il mio coimputato in questo stesso processo, con le nostre parole, è propaganda col fatto. Questo è il punto. Tutto ciò che va molto più in là del mero esercizio della violenza e nello specifico degli ordigni esplosivi. Devo anche sottolineare come in questo processo, così come in tutti gli altri processi penali in cui sono stata e in quelli in cui sono stata spettatrice, nei confronti di compagni e compagne, tanto in Cile come in altre parti del mondo, si è sempre assimilata la nostra visione politica a dei fatti delittuosi, e mi pare curioso, per non dire altro, che si stia negando questo aspetto investigativo. Altrimenti, che senso avrebbe avuto il sequestro delle decine, per non dire centinaia, di libri, centinaia e migliaia di volantini, poster, opuscoli e così via? Non capisco se non abbia altro scopo che lo studio della nostra concezione del mondo o del nostro modo di intendere la politica, o lo scontro col dominio, e non comprendo la negazione di questo aspetto. Come già dicevo prima, sono anarchica, pertanto nemica di ogni forma di dominazione, sottomissione e oppressione realizzata attraverso qualsiasi struttura di potere, per cui lo Stato in tutte le sue forme e rappresentazioni è illegittimo, partendo dall'idea per cui lo stesso Stato si creò e consolidò a partire dall'idea del bene comune, o perlomeno il bene della gran maggioranza, cosa che è assai lontana dalla verità. Vivo in un mondo in cui un gruppo privilegiato esiste al prezzo della miseria della grande maggioranza. Costruire forme antagoniste alle relazioni di potere è necessario affinché esista uno sviluppo integrale di tutti questi di tutti gli abitanti di questo mondo, tanto umani quanto animali. Infine, posso dire a tutti i presenti che aspetto piuttosto tranquillamente il verdetto di questo tribunale, perché so che le idee di emancipazione alle quali ho dedicato buona parte della mia vita trascendono me stessa. In ultimo, ai presenti, ai miei compagni e compagne presenti, come a coloro che ascolteranno, leggeranno in seguito le mie parole, posso dire che fino all'ultimo respiro che mi rimanga sempre affermerò: morte allo Stato e viva l'anarchia. Bene, lasciamo in sottofondo questa band, loro sono i Renegades of Punk, band brasiliana, da un loro album uscito nel 2012. Ma poi anche alcune precisazioni, insomma, già che ci siamo, abbiamo fatto prima fatto ascoltare alla fine del primo intervento una band spagnola della zona di Cordoba che si chiamano Viva Belgrado, e da un loro album uscito nel 2016, mentre poco prima di questa band, i Renegades of Punk, abbiamo ascoltato invece gli X-Mel Deutschland, che è una band esistita nella zona di Amburgo nei primi anni 80. Bene, ora, come detto prima, lasciamo andare questi Renegades of Punk, band dal Brasile, loro album Coração Metronomo, uscito nel 2012. Sì, e continuiamo a parlare di procedimenti giudiziari. Allora, domani, 26 gennaio, a Roma ci sarà l'udienza in Cassazione per l'azione contro la Lega di Villorba Treviso del 2018, che vede imputato, cioè per la quale è stato condannato Juan Sorroche. E, allora, ricordo che il primo grado, l'udienza di primo grado è stata l'11 giugno del 2022. E, Juan era accusato di strage politica, la condanna è stata una condanna terribile, cioè di 28 anni e dopo i 28 anni altri 3 anni di libertà vigilata, e c'è stato l'appello e questa condanna è stata ridimensionata, praticamente dimezzata, ridimensionata a 14 anni e 7 mesi. E succede però che il pubblico ministero ha fatto appello in Cassazione per il peggioramento della sentenza, e quindi appunto e anche Juan ha fatto a sua volta appello, vista la comunque pesante condanna di 14 anni e 7 mesi. E appunto domani ci sarà questa udienza in Cassazione. E, Juan non sarà presente nemmeno in videoconferenza, in quanto già appunto in primo grado aveva dichiarato di rifiutare di essere presente in videoconferenza, appunto per protesta contro questo metodo, e quindi non sarà presente e chiede, attraverso un comunicato che è stato diffuso dai blog di Movimento, chiama una presenza energica al processo che si terrà appunto a Roma, e comunque invita, insomma, a fare quello che si vuol fare insomma in occasione di questa giornata. E sempre in questa dichiarazione dice che, insomma, sottolinea che il ridimensionamento della condanna in appello, quindi da 28 a 14 anni, sia anche frutto delle lotte, insomma del clima di lotta che è stato creato, che abbiamo creato come anarchici e non solo, nel periodo di solidarietà ad Alfredo, e quindi, diciamo, valorizza anche questo aspetto qua, scegliendo di così, di vedere sempre il lato positivo delle vicende, insomma, anche quando è difficile andare avanti, magari anche quando si è accerchiati e anche se non si riesce ad ottenere tutti i risultati, come nel caso, insomma, di Alfredo, che è ancora al 41 bis, però Juan, appunto, da Terni cerca di vedere gli aspetti creativi, diciamo, gli aspetti, insomma, che danno coraggio, che fanno andare avanti, piuttosto che le contraddizioni e i lati critici. E appunto, in occasione di questa quindi udienza di Cassazione, domani ci sarà un presidio solidale a Roma a partire dalle 10. E domani 26, mi sembra. Sì, domani, che è il 26. Venerdì 26, giusto. E appunto vi leggo il volantino che l'Assemblea di Solidarietà con i prigionieri e le prigioniere rivoluzionarie ha scritto per questo presidio. Solidarietà a Juan contro il razzismo genocida di Stato e Lega Nord, contro il massacro del popolo palestinese, solidarietà a tutti gli antifascisti e rivoltosi internazionalisti in Ungheria, in Europa e nel mondo. Solidarietà agli anarchici contro le frontiere nel processo del Brennero. Il 26 gennaio si terrà un'udienza in Cassazione a carico di Juan Sorroque, il nostro compagno anarchico in carcere dal maggio 2019, è stato condannato a 14 anni e 7 mesi in appello per un attacco alla sede della Lega di Villorba, Treviso, avvenuto nel 2018. Nel richiamare l'attenzione sulla vicenda di Juan, messo nuovamente a giudizio in Corte di Cassazione il 26 gennaio 2024, e rinnovando l'invito a un'energica manifestazione di solidarietà nei suoi confronti, non possiamo in questa occasione non ricordare il ruolo e le responsabilità politiche della Lega nel passato e nel presente. La Lega, da sempre il meglio della politica forcaiola e razzista italiana, paladina dell'istituzione della famiglia cristiana e patriarcale, camuffata da finte esternazioni sulla difesa dei diritti civili, come dimostrato in occasione del tentato colpo di mano sul diritto all'aborto nel 2019. Responsabile di campagne criminalizzanti contro i migranti, dei restringimenti alle frontiere, delle espulsioni forzate e delle conseguenti stragi in mare di migliaia di persone in fuga da guerre e miseria. Sul solco della precedente politica del governo Minniti-Renzi che aprì i lager in Libia. Nell'attuale governo, attraverso l'incarico di Salvini al Ministero delle Infrastrutture, con il riciclaggio nel carrozzone delle grandi opere, con l'operazione mediatica del ponte sullo stretto e con il ben più grave criminale progetto di riportare l'Italia nell'incubo del nucleare. La Lega, che oggi si distingue per aver espresso pubblicamente il sostegno a Israele e la difesa dei valori occidentali, non è sola nella difesa di questi valori, che sono bensì politicamente trasversali e quindi immanenti a ogni schieramento politico borghese, basato sullo strumento coloniale e sulla cultura dell'estrattivismo, cultura che produce sia il saccheggio delle risorse naturali quanto l'assoggettamento dell'umano e del vivente alla legge del profitto. Lo Stato coloniale di Israele, militarista fino al midollo, è tra i massimi sviluppatori di tecnologie di spionaggio, di controllo e di guerra. Questi strumenti di morte, testati già da anni sulla popolazione palestinese, sono prodotti e implementati non solo in ambito militare, ma anche in ambito civile, attraverso il continuo interscambio tra enti di ricerca, aziende e università a livello internazionale. Questo intreccio del complesso militare industriale tra i paesi a capitalismo avanzato è un fattore determinante nelle politiche guerrafondaie del blocco occidentale. Lo sanno bene gli attuali rappresentanti del governo italiano, che scalpitano per entrare in grande stile nell'operazione Aspides, insieme a Francia e Germania, per difendere gli interessi delle rotte commerciali nel Mar Rosso. Non c'è da stupirsi, dopo anni di respingimenti e affondamenti nel Mar Mediterraneo, si sottoscrive il genocidio a Gaza con la solita falsa missione di polizia internazionale, missione che nel solco tracciato del supporto militare all'Ucraina spinge sempre di più verso uno scontro globale e diretto tra grandi potenze. Dall'altra parte, la campale resistenza del popolo palestinese, le lotte contro le frontiere e i CPR, le azioni dirette di chi attacca il potere sono il nostro faro contro la barbarie senza fine degli stati nazionali e della guerra. Non sappiamo chi ha colpito la sede trevigiana della Lega quel giorno, ma abbiamo ben chiaro che le vere stragi sono da un'altra parte. Venerdì 26 gennaio 2024, ore 10, presidio solidale davanti alla Corte di Cassazione. Dal 26 febbraio al 5 marzo, mobilitazione in solidarietà agli imputati e alle imputate del processo del Brennero. Bene, abbiamo ascoltato due brani adesso di seguito di questa band di Milano, sono gli Scalp, ed è, insomma, hanno intitolato questi due brani My Domi. Pare ovviamente una cosa, diciamo, quasi in anteprima, stanno facendo uscire, è prevista in febbraio il loro primo album, una band che si è formata recentemente e stanno, come dire, quasi raccogliendo consensi in rete, una specie di preordine per chi volesse acquistare la loro prossima uscita. Comunque, vabbè, troverete tutto in rete nei famosi siti adibiti a questa situazione delle autoproduzioni. Comunque loro, come ho detto, Scalp da Milano. Ora invece andiamo all'ascolto di una band torinese tuttora attiva dopo tanti, alcuni insomma dagli anni 90, primi anni 2000. Loro sono gli Always e da questo loro Heartcore ci ascoltiamo un paio di brani. Bye. Sì, allora anche lo scorso giovedì avevamo parlato dell'importanza della memoria del presente, cioè dell'importanza di diciamo collocare la memoria storica anche in quello che succede ora, e anche abbiamo parlato anche del fatto che è importante, che la memoria è importante in quanto spinta, diciamo, all'azione contro ogni oppressione. E l'avevamo fatto con alcuni contributi del coordinamento per la smilitarizzazione della scuola. E oggi proseguiamo su questo filone, diciamo, presentando un'iniziativa che si terrà a Trento proprio sabato 27 gennaio, giornata della memoria, e cioè un corteo. E vi leggo il volantino, perché dice bene, in maniera sintetica, dice bene, insomma, qual è lo spirito di questa iniziativa. Oggi come ieri l'indifferenza è complicità. Quando gli orrori e le carneficine si leggono sui libri di storia, è facile mettersi dalla parte dei buoni, perché non costa niente. Più difficile e costoso, invece, è combattere l'orrore quando è in corso, schierandosi con gli oppressi, mentre quasi tutta la società che conta, politici, industriali, giornalisti, televisioni, giustifica i massacri e sostiene i massacratori. Dopo l'azione della resistenza palestinese del 7 ottobre, lo Stato sionista infierisce da oltre 100 giorni sulla striscia di Gaza, causando decine di migliaia di morti e mutilati, mentre milioni di persone fuggono verso frontiere blindate e vengono bombardate anche là. Lo Stato di Israele tratta con la Repubblica Democratica del Congo, ipotizzando addirittura la deportazione dei palestinesi in Africa centrale. Mentre organizza le iniziative per la giornata della memoria, la provincia autonoma di Trento non fa che promuovere le collaborazioni anche belliche con le industrie e gli atenei israeliani. E questo non capita solo a Trento. La storia non si ripete mai uguale. Non si tratta di tracciare paralleli tra quanto accaduto ieri e quanto accade oggi, ma di non chiudere gli occhi di fronte all'orrore attuale. Con una sola cosa che resta al suo posto, oggi come ieri, dalla parte degli oppressi e delle oppresse, contro i massacri dei padroni e degli stati. Altrimenti, una certa memoria imbalsamata non serve a niente. Per una memoria del presente, contro il genocidio dei palestinesi perpetrato dallo Stato di Israele, per la denuncia di tutte le complicità economiche, industriali, statali, accademiche con lo Stato colonialista israeliano. Per una Palestina libera dove possano convivere popoli, tradizioni, individui differenti tra di loro, in sostegno alla resistenza palestinese e ai disertori israeliani. We'll be right back. 21-12 minuti di questo giovedì 25 gennaio, Zardins Magnetics, che non va male ripeterlo, è una trasmissione che va in onda ogni settimana a quest'ora, cioè appunto tra le 8 e le 9 e mezza, o tra le 20 e le 21:30, in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine. Se vi siete appena sintonizzati, appunto, in questa puntata di questa sera abbiamo già parlato appunto della situazione di alcuni prigionieri e della, cioè Stecco e Juan, e della mobilitazione per la Palestina. In riferimento alla situazione appunto di venerdì scorso, venerdì 19, al Tribunale Trieste, è stato detto, appunto, è stato scritto da Stecco giustamente che, cioè giustamente, ha riportato che la decisione della videoconferenza, di appunto di essere presenziare in videoconferenza come imputato al processo, era una decisione del DAP, ovvero era nient'altro che una misura di prevenzione, ovvero una, possiamo dire sì, una, un dispositivo amministrativo davanti al quale nessuno, come anche le prescrizioni davanti per una qualunque manifestazione pubblica, sono momenti appunto dove lo Stato, davanti a una cortina fumogena appunto di discorsi di ordine pubblico o prevenzione appunto relativamente a presunte pericolosità degli imputati, sì, fa leva su quello che era la struttura repressiva del ventennio fascista, e sotto la dittatura succedevano queste robe qua, non si poteva manifestare, non si poteva far sciopero, non ci si poteva difendere. Loro, questi democratici qua, dicono appunto di esserlo, e che però di fatto mettono in atto questo tipo di situazioni per cui uno non può difendersi o è minorato nella propria difesa davanti a un processo penale, eccetera eccetera. Una misura di prevenzione è anche il 41 bis, come abbiamo ampiamente parlato nello scorso inverno, durante il digiuno di Alfredo Cospito. Quel discorso sul 41 bis, oltre che riguardare uno dei prigionieri anarchici attualmente nelle galere italiane, non riguarda solo appunto la situazione di Alfredo Cospito, ma continua a essere una delle punte di diamante della, oltre che della repressione, anche di tutta una retorica, di tutta una propaganda che fanno una serie di elementi della società, dai giustizialisti, dai manettari, quelli che sono, insomma, con Beppe Grillo sono già una quindicina d'anni, ci hanno triturato, insomma ci hanno tontonato, si dice in friulano, con questa cosa che si rimediavano i torti mettendo la gente in galera. E dall'altra parte ci sono quelli appunto che hanno fatto la come si dice la l'elogio, insomma, dell'antimafia, hanno fatto la, hanno costruito tutta una, anche qui una serie di purtroppo devo dire narrazioni, come diciamo, delle costruzioni retoriche, delle alla fine anche mitologie, non so, per cui esistevano, sì, sulla scorta tra l'altro dell'antiterrorismo, perché dalla Chiesa annessi e connessi, poi appunto abbiamo, abbiamo sostituito all'antiterrorismo l'antimafia, eccetera, siamo arrivati appunto all'eroismo dei parroci, così, che hanno costruito ben altre fortune di altro tipo sullo sfruttamento essenzialmente dei marginali, dei non inclusi e di altri, insomma, che soggiogati a questa ideologia. Quindi è importante continuare a parlare di questa questione, e soprattutto anche alla fine, diciamo, di questo ciclo di mobilitazione che è stata quella dello scorso inverno. E per questo a Udine, nella città di Udine, verrà presentato sabato 3 febbraio, nella città di Udine, libreria Tarantola in via Vittorio Veneto, avremo l'avvocata o avvocatessa Maria Teresa Pintus, coautrice di questo volume fatto più o meno, che è uscito in aprile del 2023 da Kaluska City Lights e Colibri, Pensare l'impensabile, tentare l'impossibile, a fianco di Alfredo contro l'ergastolo 41 bis, è il titolo del libro, che contiene, diciamo, una serie di contributi che sono nient'altro che relazioni e sbobinature di interventi appunto fatti in quella, diciamo, serie di infinita di iniziative che sono state fatte in Italia e fuori dall'Italia nel appunto tra il 2022 e 2023, in corrispondenza col sciopero della fame di Alfredo Cospito contro l'ergastolo e contro 41 bis. Quindi ne riparleremo chiaramente anche giovedì prossimo, ma segniamoci intanto questo appuntamento alla libreria Tarantola di Udine, via Vittorio Veneto 20, sabato 3 febbraio, presentazione di Pensare l'impensabile, tentare l'impossibile. Crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! Bene, stiamo ascoltando in questa band olandese, loro sono i Sand Creek Massacre, ed è un album uscito nel 2010, anzi per l'esattezza uno split, condiviso con una band francese, gli Heirs of Decay. Che altro dire, è uscito grazie all'interessamento di varie etichette del nord Europa, etichette del campo delle autoproduzioni. Comunque rimaniamo ancora all'ascolto di questi Sand Creek Massacre. Eccoci qua, a pochi minuti, eccoci qua, un attimo fa ho parlato, quindi non è che, scusate, che dire, che siamo giunti al termine della trasmissione, mi sono accorto che mancavano proprio pochissimi minuti, alle 21.30, che è il termine della diretta per questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle 20 alle 21.30, oggi in particolare è il 25 gennaio 2024, ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. Quindi anche come consuetudine a fine trasmissione vi leggo i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica basta scrivere a liberetutti@autistiche.org, oppure potete anche farlo in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche quella odierna, ma anche quella delle volte scorse, di tutti i giovedì in passato, potete riascoltarle andando nel blog, smanettando in rete, troverete zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, vi saluto e salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Ora tra l'altro manca proprio 2 minuti circa, quindi riusciamo ad ascoltare un altro brano per questa band. L'avevamo ascoltata già prima, alla fine di un intervento, una quindicina di minuti fa. Questa è una band californiana, mi viene da dire il termine, un intruglio di varie persone che vivono, si sono trasferite in California, varie persone sparse nel pianeta, tra cui c'è pure il batterista, non so se farà piacere saperlo, è italiano. Loro sono comunque i Torso, e da un loro disco uscito nel 2019 ci ascoltiamo un brano. Ciao.